canto, larme pietose e il capitano, che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, e molto soffrì nel glorioso acquisto. Invan l'inferno vi soppose, e invano s'armò d'Asia e di Libia il popol misto. Il ciel gli diè ragione, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Bene, questa è una ottava, cioè una forma classica della tradizione lirica italiana, che è composta da 8 versi, 6 dei quali si susseguono in rima cosiddetta incatenata, e vediamoli. Cantò l'arme pietoso il capitano, terminazione A, che il gran sepolcro libero di Cristo, B, molto gli oprò col senno e con la mano, A, molto soffrì nel glorioso acquisto, B, invan l'inferno vi soppose, invano, A, invan s'armò d'Asia e di Libia il popol misto, B, e poi 2 in rima baciata, che vanno a costituire in qualche maniera il ritornello. Infatti è: il ciel gli diè ragione sotto ai santi, C, segni ridusse i suoi compagni erranti, C. Ora, ciò che è interessante notare è che questa non è solo la base di tutta la canzone occidentale intesa come forma di espressione poetica e lirica, ma anche di tutta la canzonetta occidentale. E, canzonetta occidentale da cui deriva anche la canzone pop. Infatti andiamo a prendere un classico del pop e vediamo cosa succede. How many roads must man walk down? A. Before you can call him a man. B. How many seas must the white dove sail? A. Before she sleeps in the sand. B. How many times must the cannonballs fly? Ah. Before they're forever banned. B. The answer, my friend, is blowing in the wind. G. The answer is blowing in the wind. G. Il capitano che liberò il gran sepolcro di Cristo è Goffredo di Buglione, duca della Bassa Lorena. Ora, Goffredo è molto più di un protagonista, è l'eroe destinato a compiere il senso del sogno. Eh sì. Potremmo infatti considerarlo, questo poema, come la storia di un sogno, ovvero come il sogno di una storia, ma tutta interiore, simbolica. Sì, per l'autore la conquista di Gerusalemme non era tanto un fatto storico, quanto piuttosto uno stemma, una raffigurazione di una lotta dell'anima in cerca della propria liberazione. Il gran sepolcro di Cristo è il simbolo della morte e della rinascita, e conquistarne il senso sarà la ragione ed il termine del sogno. Già il sesto anno volgea che in Oriente passò il campo cristiano all'alta impresa. E Nicea per assalto e la potente Antiochia con arte aveva già presa. L'aveva poscia in battaglia in contragente di Persia innumerabile difesa, e Tortosa e spugnata India larea, cioè brutta stagion di el loco, e il nuovo anno attendea. E il fine omai di quel piovoso inverno che fea l'arme cessar lunge non era, quando dall'alto soglio il Padre Eterno, che è nella parte più del ciel sincera e quanto è dalle stelle al basso inferno, tanto è più in su della stellata sfera, gli occhi in giù volse e in un sol guardo, in una vista, mirò ciò che in sé il mondo aduna. Ai ai ai, mirò tutte le cose ed in Siria s'affisò poi nei principi cristiani e con quel guardo suo che dentro spia nel più secreto lor gli affetti umani vide Goffredo che scacciar desia della santa città gli empi pagani e pien di fe, di zelo ogni mortale gloria, imperio, tesor mette in non cale, ma vede in Baldovin cupido ingegno alle umane grandezze intento aspira. Vede Tancredi aver la vita a sdegno, tanto un suo vano amor lange e martira, e fondar Boemondo al nuovo regno suo d'Antiochia alti principi mira. E leggi imporre d'introdur costume d'arti e culto di verace nome, e cotanto internarsi in tal pensiero che altra impresa non par che più rammenti, scorge in Rinaldo e animo guerriero e spirti di riposo impazienti, non cupidigia in lui d'oro o d'impero, ma d'onor, brame immoderate, ardenti. Scorge che dalla bocca intento pende di guelfo e i chiari antichi esempi apprende. Ma poi che ebbe di questi ed altri cori scorti gli intimi sensi, il re del mondo chiamò a sé dagli angelici splendori Gabriel, che ne primi era secondo. È fra Dio questi e l'anime migliori interprete fedel, nunzio giocondo. Giù i decreti del ciel porta e dal cielo riporta dei mortali i prieghi e il zelo. E disse al suo nunzio Dio: Goffredo trova. E il mio nome di lui perché si cessa? Perché la guerra ormai non si rinnova a liberar Gerusalemme oppressa? E chiami i duchi a consiglio, i tardi mova all'alta impresa e i capitanti ad essa. Io qui le leggo e faranno gli altri in terra, già suoi compagni o suoi ministri in guerra. Così parlò gli. E Gabriele s'accinse veloce ad eseguir l'imposte cose, la sua forma invisibil d'aria cinse e dal senso mortal la sottopose. Umane membra, aspetto uman si finse, ma di celeste maestà il compose, fra giovane e fanciullo età confine prese ed ornò di raggi il biondo crine. Ali bianche vestì candor le cime, infaticabilmente agile e preste, fende i venti e le nubi e va sublime sovra la terra e sovra il mar con queste. E così vestito indirizzossi a Lime, cioè lontanissime parti del mondo, il messagger celeste, e pria sul Libano monte e si ritenne e si librò sull'adeguate penne e ver le piagge di Tortosa poi drizzò precipitando il volo in Giuso. Sorgeva il nuovo sol dai lidi eoi, parte già fuor, ma il più nell'onde chiuso, e porgea a matutini i prieghi suoi Goffredo a Dio, come egli avea per uso, quando apparo col sol, ma più lucente, l'angelo gli apparì dall'Oriente. Disse: disse: Goffredo, ecco opportuna. Già la stagionca al guerreggiar s'aspetta. Perché dunque trapor dimora alcuna? A liberare Gerusalem soggetta. Tu i principi a consiglio mai raguna, tu al fin dell'opera e neghittose affretta. Dio per lor duce già te legge. Ed essi sottoporranno volentieri a te se stessi. Dio, messagger mi manda, io ti rivelo la sua mente in suo nome, o quanta speme aver d'alta vittoria, o quanto zelo dell'oste a te commessa, or ti conviene. Tacque e sparito rivolò del cielo alle parti più eccelse e più serene. Resta Goffredo, ai detti, allo splendore d'occhi abbagliato, attonito di core. Ma poi che si riscote, che discorre, chi venne, chi mandò, che gli fu detto? Oh, se già bramava or tutto arde d'imporre fine alla guerra ond'egli è duce letto, non che il vedersi agli altri in ciel preporre d'aura ambizione gli gonfi il petto, ma il suo volere si infiamma più nel volere del suo signor, come favilla in fiamma. Ah, Goffredo di Bouillon, guardiamolo più da vicino, questo pio guerriero colto in preghiera mattutina presso la propria tenda. È fine e maturo all'aspetto, di modi cortesi, ha l'espressione sincera e fervida di propositi. In battaglia sappiamo che è tanto destro e potente che durante l'assedio di Antiochia spaccò in due con un solo fendente della spada un cavaliere turco dalla spalla all'anca, e mentre una metà fulminata dal colpo cadde a terra, l'altra se ne andò via ritta sul cavallo. Ora, il duca sa dominare uomini e situazioni, ma non ha alcuna ambizione di dominio. Sì, è un buon stratega, ma finora, sentendosi niente più che un penitente nelle mani di Dio, non ha fatto nulla per prevalere sugli altri capitani. Eccolo qua, l'eroe pacato che guiderà i crociati contro le forze ostili che stanno per sollevarsi. Sì, perché bisognerà guardarsi non soltanto dai nemici, ma anche dagli amici fuorviati dalle passioni e dai nemici travestiti da amici. Mille diavoli! Goffredo riunisce i capitani crociati e li invita a riprendere la guerra. Bisognerà affrettarsi, perché gli egiziani potrebbero intervenire in difesa di Gerusalemme e rendere tutta l'impresa assai più dura e incerta. I capitani crociati, ispirati dal Signore, si dichiarano d'accordo con Goffredo e lo eleggono capo supremo della spedizione. Vinta la neghittosità, tutti sono diventati impazienti, ci si prepara a muovere dal campo. Prima però il poeta ci invita a passare in rassegna i capitani e le loro truppe. C'è davvero un enorme stuolo di gente accorso a liberare Gerusalemme. Prima ai Franchi, mille son di gravissima armatura, poi il conte di Carnuti con 400 cavalieri, Baldovin ne guida 1200. E poi la gente candida e bionda che fra i Germani, i Franchi e il Mar si bagna. Sono i fiamminghi. E gli insulani lor sono gli olandesi. E maggiore alquanto è lo squadron britannico. Questi inglesi sono sagittari ed hanno gente con loro che è più vicina al polo. Questi, dall'alte selve, il su ti manda, la divisa dal mondo, ultima, Irlanda! E poi i protagonisti. Per presentar Tancredi, il qual fa scorta a 800 cavalieri provenienti dalle terre di Campania, le terre cioè i cui colli guarda il Tirren, fertili e molli. Il poeta si serve di quello che oggi definiremmo un espediente cinematografico, ma che altro non è in realtà che un espediente tradizionale dell'arte cosiddetta narrativa. Un flashback ci riporta qualche settimana prima dell'inverno, durante la battaglia che fu decisiva e pose fine all'assedio di Antiochia, consentendo ai crociati di conquistare la città. E fama che quel dì che glorioso fe la rotta dei Persi, cioè la fuga dei musulmani, il popolo franco, latino, crociato per antonomasia, poiché Tancredi, al fin vittorioso, i fuggitivi di seguir fu stanco, cercò di refrigerio e di riposo a l'arse labbia al travagliato fianco e trasse, ove invitollo a rezzo estivo, cinto di verdi seggi, un fonte vivo. Quivi a lui d'improvviso una donzella, tutta fuorché la fronte armata apparse. Era pagana e qua venuta anch'ella con li stessa cagion di ristorarsi. Egli mirolla ed ammirò la bella sembianza ed essa si compiacque e narse. Oh meraviglia, amor, appena è nato già vola alto e già trionfa armato. Circa la fortuna mi destino mi incamminava solo all'acqua fresca. La luna più vicino in mano un bilancello, la mia giarretta ella d'elmo coprissi, e se non era che altri quivi arrivar, bella saliva. Partì dal vinto suo la donna altera, che è per necessità sol fuggitiva, ma l'immagine sua, bella e guerriera, tale i serbò nel cor quale appariva. E sempre ha nel pensiero e l'atto e il loco, in che la vide esca continuo al fuoco. Ben nel volto suo la gente accorta a legger potria. Questi arde e fuor di speme. Così viene sospiroso e così porta basse le ciglia e di mestizia piene. Seguono i cavalieri ed i soldati di Ventura, un corpo speciale di combattenti indipendenti che sono guidati da Dudone, principe di Consa, personaggio molto simpatico che farà presto però una pessima fine. Bene, in mezzo a loro, brillando come una stella di Hollywood, ma il fanciullo Rinaldo, e sovra questi, sovra quanti in mostra eran condotti, dolcemente feroce, alzar vedresti la regal fronte e in lui mirar sol tutti. L'età precorse e la speranza e presti pareano i fior quando non usciro i frutti, se il miri fulminar nell'arme avolto Marte lo stimi. Amor se scopre il volto. Sì, abbiamo già capito che Rinaldo è uno dei favoriti, è un po' il prediletto del poema. Sì, d'altronde è uno di quei tipi che rendono la vita interessante e anche quando provocano dolorosi scompigli o ci abbandonano, non possiamo fare in modo che ritornino. Seguono poi i fanti, i corpi delle fanterie. Il vecchio conte Raimondo di Tolosa guida 4.000 uomini, 5.000 ne guida Stefano d'Ambuosa, seguono poi 6.000 svizzeri di Alcasto, dei rudi montanari che vigoreggiano persino nel deserto, e chiude l'allegra brigata il gruppo dei 7.000 soldati pontifizi guidati da Camillo conte degli Orsini. Bene, tutto è pronto. E domani mattina all'alba, preceduto dagli esploratori e dai guastatori, l'esercito crociato muoverà minaccioso verso Gerusalemme. Sovra due colli è posta, d'impari altezza e volti fronte a fronte. Va per lo mezzo suo valle interposta che lei divide e l'un dall'altro monte. Fu da tre lati a malagevol costa, per l'altro vassi e non par che si monte, ma d'altissime mura è più difesa la parte piana e incontra Borea, cioè a nord estesa. La città dentro lochi in cui si serba l'acqua che piove, e laghi e fonti vivi, ma fuor d'intorno è nuda d'erba e di fontane sterile e di rivi, e ne si vede fiorir lieta e superba da alberi o fare schermo ai raggi estivi, se non se in quanto oltre a 6 miglia un bosco sorge d'ombre innocenti, orrido e fosco. A, da quel lato donde il giorno appare, del felice Giordan le nobili onde, felice il fiume, nobili le onde, perché hanno dato i battesimi a Gesù. E dal lato occidentale del mare Mediterraneo, l'arenose sponde. Aladdin, detto, è il re che di quel regno nuovo signor vive in continua cura. Uom già crudele, ma il suo feroce ingegno pur mitigato avea l'età matura. Egli, che dei latini, cioè dei crociati, udì il disegno ch'andà a salir di sua città le mura, giunge al vecchio timor nuovi sospetti, e dei nemici pave a paura, e dei soggetti, anche dei suoi sudditi. Però ca dentro a una città commisto, e popolo alberga di contraria fede. La debil parte è la minore in Cristo, ma la grande è forte, e Macometto crede. E quando il re fe di Sion, che è sempre Gerusalemme, l'acquisto, la conquista, e vi cercò di stabilire la sede del suo regno, scemò, abbassò i pubblici pesi, cioè e tasse, ai suoi pagani, ma più gravonne i miseri cristiani. E questo pensier, la ferita nativa che, come sappiamo, negli anni sopita e fredda, langue, irritando, inasprisce e la ravviva, sì cassetata è più che mai di sangue. Tal fero torna alla stagione estiva quel che nel gel parve piacevole langue, sarebbe così ritorna spaventoso d'estate, come serpente spaventoso, quello che nell'inverno sembrava un innocuo serpentello. Così leon domestico riprende l'innato suo furor, s'altri l'offende. Veggio, dicea, della letizia nova, veraci segni in questa turba infida, il danno universal solo a lei giova. Solo nel pianto comun par che la rida, e forse insidie e tradimenti orcova, rivolgendo tra sé come m'uccida e come al mio nemico e suo consorte popolo. Occultamente apra le porte, ma non farà. Prevenirò questi empi disegni lor. E sfogherommi a pieno. Gli ucciderò, faronne acerbi scempi, svenerò i figli alle loro madri in seno, brucerò gli alberghi e insieme i templi, a questi debiti e roghi ai morti fieno, e su quel loro sepolcro in mezzo ai voti, e vittime pria farò dei sacerdoti. Per farsi un'idea della potenza del mago Ismeno, non Aladino, Aladino è il re di Gerusalemme, questo è un mago, si chiama Ismeno, basti pensare che gli riesce persino a ridare sembianza di vivi a persone morte e sepolte. Satana stesso ne è intimidito. Sì, perché gli può comandare i diavoli senza chiedergli il permesso. Ora, costui, Ismeno, ha una sfrenata passione per le arti occulte e di solito se ne sta rintanato nelle sue spelonche, tutto assorto in ricerche e prove di stregoneria. Ma stavolta l'occasione è troppo grossa. Ah sì? Bisogna infatti sapere che Ismeno ha l'ambizione di consacrare la magia con il soprannaturale e aspira, assai confusamente, bene dirlo, alla religione. Prima ci ha provato con il cristianesimo, di cui gli piacevano molto i riti, le raffinate teologie, ma poi, per essere più libero di frequentare i demoni, ha abiurato la fede cristiana e si è fatto macomettano. Ed eccolo quindi alla corte di Aladino in veste di consigliere. Beh, il vecchio re, così insicuro delle proprie forze, non par vero di poter profittare di un tale arcimago, che infatti, appena arrivato, espone il suo piano per rendere inespugnabile la città. Nel tempio dei cristiani occulto giace un sotterraneo altare. E qui vi è il volto di colei che sua diva e madre face, quel vulgo del suo dio nato e sepolto. Or quest'effigie lor, di là rapita, voglio che tu di propria man trasporti. E la riponga entro la tua meschita e la moschea. E io poscia incanto adoprirò sì forte cognor, mentre la qui fia custodita, sarà fatal custodia a queste porte, tra mura inespugnabili. Il tuo impero sicuro fia per novo, alto mistero. Sì, disse, e il persuase, e impaziente il re s'incorsi alla magion di Dio, e irriverente il casto simulacro indi rapio, e portollo a quel tempio ove sovente s'irrita il ciel col folle culto e rio, e nel profan loco e sulla sacra imago sussurrò poi le sue bestemmie. Il mago. Bene, tutta l'operazione va però in fumo. Sì. All'alba del giorno dopo si scopre che la sacra immagine è scomparsa dalla moschea. Chi sia stato a compiere questa contromagia non si è saputo mai. Poeta inclina a credere in un intervento diretto del cielo e noi siamo dello stesso parere. Ma Aladino ovviamente no. È convinto che un cristiano abbia trafugato l'immagine e in un accesso di ira fa setacciare tutta la città. Ogni casa, ogni chiesa di cristiani vengono minuziosamente perquisite. E però dell'immagine non si trova traccia, E anche le arti magiche faticosamente messe in atto da Itmeno palliscono. A questo punto Aladino, accecato dall'ira, ordina che tutti i cristiani di Gerusalemme siano trucidati. Frattanto l'esercito crociato, abbandonata la costa attraversando le colline della Giudea, ha raggiunto la cittadina di Emmaus a poche miglia da Gerusalemme. È il tramonto e Goffredo ordina di piantare le tende. Qui, scortati da un gran numero di paggi e scudieri, fanno la loro comparsa due ambasciatori del re d'Egitto. Ai, sono una coppia assai bene assartita e che non promette nulla di buono. L'uno, Alete, è un abile mistificatore, un diplomatico che ha fatto carriera grazie alle sue doti di astuto oratore. Non sentiremo particolarmente più parlare di lui. Ma l'altro, Argante, un circasso forte ed energico che gli egiziani hanno ammesso fra i loro capi per la sua valentia militare. Di lui sentiremo parlare invece molto spesso, diventerà uno degli antagonisti per eccellenza del poema, è di poche parole, di modi brutali ed ha una brutale decisione. E due sono ricevuti da Goffredo con tutti gli onori, i capitani crociati in semicerchio intorno al duca di Buglione stanno appoggiati ai pomi delle loro spade. Dopo un lusinghevole preambolo, tutto ammirazione per la fama di cui Goffredo gode anche in Egitto, Alete riferisce con eloquenza orientale il messaggio del suo sovrano. E beh, si tenga, Goffredo, ciò che il suo esercito ha sinora conquistato. Ma non molesti Gerusalemme, che gli egiziani sono amici di Aladino e interverrebbero in sua difesa. Il capitan, cioè Goffredo, rivolse gli occhi in giro 3 volte 4 e mirò in fronte i suoi e poi sul volto di colui li affisse che attendeva la risposta e così disse: «Messagger, dolcemente a noi esponesti ora cortese or minaccioso invito. Bah, se il tuo re m'ama e loda i nostri gesti, è sua mercede, me l'amor gradito, ma a quella parte poi dove protesti la guerra a noi del paganesimo unito, risponderò come da me si suole, liberi sensi in semplici parole. Sappi che tanto abbiamo sinora sofferto in mare, in terra, all'aria chiara e scura, solo a ciò che ne fosse il calle aperto di quelle sacre e venerabili mura, per acquistarne appodio e grazia e merto, togliendo lor di servitù sì dura. Né mai grave né fia per fin si degno esporre, cioè rinunciare a onor mondano e vita e regno, è che non ambiziosi a vari affetti ne spronaro all'impresa e ne fur guida, ma la sua man chi duri cor penetra suavemente e lì ammollisce e spetra. Chissà come difende e come fere, cioè come ferisce, soccorso a suoi perigli, altro non chere. Ma quando di sua ita, cioè del suo aiuto, ella la mano ne privi, chi fia di noi che esser sepulto schivi, ove i membri di Dio fur già sepulti, noi moriremo, né invidia avremo ai vivi. Noi moriremo, ma non morremo indulti, che non so cosa voglia dire, né l'Asia riderà di nostra sorte, né pianta fia da noi la nostra morte. La risposta di Goffredo indurisce e argante, il quale taglia corto il discorso: è o pace o guerra, scegli! Guerra! Gridano i capitani crociati. Gridano. Ok. Guerra! Gridano. Ok. Guerra! Gridano i capitani crociati. Era la notte. Allora caldo riposo all'onde e i venti. E parea muto il mondo. Gli animali lassi e quei che il mar ondoso e dei liquidi laghi alberga il fondo, cioè i pesci, e quei che si giace in tana o in mandria ascoso, cioè gli animali di terra, e i pinti augelli, sotto il silenzio dei secreti orrori, sopiano gli affanni e raddolciano i cori. Ma né il campo fedel, cioè il campo cristiano, né il francoduca, cioè Goffredo, si discioglie nel sonno, o almen s'acchieta, tanta cupidigia in loro è che riluca l'alba nel cielo, aspettata e lieta, perché il cammin lor mostri e li conduca alla città, che al gran passaggio è meta. Mirano ad or se raggio alcuno spunti o si schiari della notte il bruno. Che cos'è un rogo? È una menmessa catasta di legna, generalmente in forma di piramide, su cui qualche coscia o qualche duno deve essere bruciato. Eh sì, e se si tratta di bruciare non già un cadavere ma un uomo vivo, allora sulla catasta viene conficcato un robusto palo di legno a cui con catene di ferro viene legato il condannato. Poi si appicca il fuoco alla catasta e si sta a guardare. La catasta aveva già cominciato a scoppiettare e sul palo, legati l'uno alle spalle dell'altra, erano due giovani e leggiadri cristiani. Ora Aladino aveva dato ordine che tutti i cristiani di Gerusalemme fossero trucidati. La giovane Sofronia, cristiana, per salvare la sua comunità, si era stoicamente autoaccusata del furto. Sì, si era presentata coraggiosissima da Aladino e gli aveva detto: signore, il reo, cioè il colpevole che tu cerchi sono io, signore, ho preso l'immagine, io l'ho, signor, furata, cioè rubata, sì, e l'ho bruciata, perché non fosse più profanata da mani pagane. Aladino dice: andava molto bene a rogo. La notizia corre per la città e getta nella costernazione il giovane Olindo, nascostamente ma assai appassionatamente innamorato di Sofronia. Quindi Olindo si autoaccusa a sua volta del furto. Ne nasce questa magnanima contesa, una gara al sacrificio che però manda in bestia e caro Aladino, il quale infatti dice: bene, bene, bene, credo a tutti e due, entrambi legati al palo sul rogo. Questo è lo spettacolo che si trova dinanzi. Clorinda, la bella armigera dai lunghi capelli d'oro, la bella armigera musulmana di cui se te stai innamorato Tancredi. Questo è lo spettacolo che si trova davanti quando giunse a Gerusalemme quello stesso pomeriggio in cui gli ambasciatori egiziani e Goffredo si erano difatti scambiati la dichiarazione di guerra. Clorinda intuisce che Olindo e Sofronia sono entrambi innocenti e fa sospendere l'esecuzione e si reca dal re. Beh, se la bella Clorinda, il fiore all'occhiello della cavalleria musulmana, viene a mettersi al suo servizio chiedendogli in cambio la vita di due condannati, orsù non sarà il caso di scontentarla. E così Olindo e Sofronia passano direttamente dal rogo alle nozze, grazie al tenero intervento di una donna, Clorinda, altrimenti impossibile, che per se stessa troverà l'amore soltanto in punto di morte. Ma quante belle donne si incontrano a Gerusalemme, soprattutto in questi duri momenti. A differenza di Clorinda, Erminia è decisamente una giovane ed in inerme cerbiata, tutta animo e sentimento. Ma perché il vecchio re di Gerusalemme, Aladino, se la tiene accanto sugli spalti? Perché Erminia è in grado di riconoscere uno ad uno i cavalieri crociati. Erminia, infatti, figlia del re d'Antiochia, quando la sua città cadde in mano al nemico e suo padre morì, fu fatta prigioniera e data in ostaggio per lungo tempo a Tancredi. Sfortunatamente la giovane principessa pagana si innamorò del suo squisito carceriere e quando costui, senza avere il minimo sospetto dei sentimenti di lei, la rimise in libertà, Erminia conobbe la disperazione più nera. E quindi, mentre Erminia trema d'emozione, vedendo il nemico che ama, costui Tancredi si scontrerà in duello proprio con Clorinda, la bionda guerriera che gli ha stregato il cuore. Clorinda intanto incontra i Franchi e gita è andata, molti van seco ed ella tutta inante, ma in altra parte onde è secreta uscita sta preparato alle riscosse argante. La generosa e i suoi seguaci incita, codetti e con l'intrepido sembiante, ben con alto principio a noi conviene, dicea, fondar dell'Asia oggi la speme. Mentre ragiona i suoi, non lunge scorse, vide un franco stuolo a due rustiche prede, cioè un gruppo di crociati che si erano arrobbati un gregge di pecore, che come l'uso a depredar precorse, e l'aver loro verso lei si incorse, il duce lor che a sé venir la vede, Gardo, il duce nomato, uom di gran possa, ma non già tal che a lei resister possa. E Gardo in quel fero scontro è spinto a terra, in sugli occhi dei franchi e dei pagani, che allor tutti gridar di quella guerra, lieti auguri, prendendo i quai furvani, spronando addosso agli altri la si serra e va alla destra sua per 100 mani, seguir le sue guerrier per quella strada che spianar gli urti e che s'aprì la spada. Tosto la preda al predator ritoglie, cede lo stuol de Franchi a poco, tanto che in cima un colle e si raccoglie ove aiutate son l'armi dal loco, e allor, siccome turbine si scioglie, e cade dalle nubi aereo fuoco, il buon Tancredi, cui Goffredo accenna, sua squadra mosse ed arrestò l'antenna. Porta si salda la gran lancia, e in guisa vien leggiadro e feroce il giovanetto che, veggendolo d'alto, il re s'avvisa che sia guerriero in fra gli scelti eletto, onde dice a colei Erminia che seco assisa e che già sente palpitarsi il petto. Ben conoscer dei tu per si lungo uso ogni cristiano, benché nell'arme chiuso. Chi è dunque costui che così bene s'adatta in giostra e fero in vista? È tanto a quella, invece di risposta viene sulle labbra un sospir, sugli occhi il pianto, pur gli spirti e le lacrime ritiene, ma non così che lor non mostri alquanto, che gli occhi pregni un bel purpureo giro strinse, roco spunto mezzo il sospiro, e poi gli dice infingevole, nasconde sotto il manto dell'odio altro desio. Oimè, bene il conosco, ed ho ben donde fra mille riconoscerlo d'è già io, che spesso il vidi i campi e le profonde fosse del sangue empir del popol mio. Ai, quanto è crudo nel ferire a piaga, che in faccia erba non giova o d'arte maga. Egli, è il prence Tancredi, prigioniero mio, fosse un giorno e non vorrei già morto o vivo, il vorrei perché in me desse al fero desio dolce vendetta. Alcun conforto. Così parlava. E le sue dette il vero da chi lo udiva in altro senso è torto. E fuor n'uscì con le sue voci estreme misto un sospir, che indarno ella già preme. E Clorinda intanto, ad affrontar l'assalto va di Tancredi, ferirsi alle visiere, i tronchi in alto volaro e parte nuda, e la ne resta che rotti lacci all'elmo suo d'un salto, mirabil colpo ei le balzò di testa, e le chiome dorate al vento sparse, giovane donna in mezzo al campo apparse. Michelle, e mi feste un lampeggiar gli occhi e scintillar gli sguardi dolci nell'ira. Or che saria nel riso. Non credi a che pur pensi? A che pur guardi? Non riconosci tu l'altero viso? Questo è pur quel bel volto onde tu tardi? Tuo cuore il dica, onde il suo esempio inciso, questa è colei che rinfrescar la fronte vedessi già nel solitario fonte. Ehi, calcimiero, dal dipinto scudo non badò prima, or lei veggendo in pietra. Ella, quanto può meglio il capo ignudo, si ricopre, ella sale, ed ei s'arretra e va contro tutti gli altri, rotando il ferro crudo, ma però da lei pace non impetra, che minacciosa e segue, e volgi, grida, e di due morti in un punto lo sfida. Percosso, il cavalier non ripercote, né sì dal ferro a riguardarsi attende come a guardare i begli occhi e le gote, onde amor l'arco inevitabil tende. E fra sé dicea, e van le percosse vuote, talor che la sua destra armata stende, ma colpo mai del bello ignudo volto non cade in fallo e sempre il cor m'è colto. Risolve alfin, benché pietà non spere, di non morir tacendo occulto amante vuol che la sappia con prigion suo fere. Già inerme e miserabile e tremante, onde le dice, o tu, a che sembri avere per nemico me sol fra turbetante, e usciam di questa mischia di indisparte ipotroteco e tu meco provarte, così mei si vedrà s'al tuo s'agguaglia il mio valore. Ella accettò l'invito. E come esser senz'elmo a lei non caglia gia baldanzosa, ed ei seguia smarrito, e recata sera in atto di battaglia, già la guerriere già l'avea ferito, quando egli or ferma disse, e siano fatti, anzi la pugna, della pugna i patti. Fermossi, e lui di pauroso audace rende in quel punto il disperato amore, e i patti sian, dicea, a che tu mi tragga il core, e il mio cor non più mio, se a te dispiace che egli pur viva, volontario more, è tuo gran tempo, e tempo è ben che trarlo mai tu debbia, e non debbio vietarlo. Or che non fiedi? Vuoi cagevoli l'opra? Io son contento trarmi l'usbergo, l'armatura. Oror, se nudo, il chiedi. Distinguea forse in più duro lamento i suoi dolori il misero Tancredi, ma calca l'impedisce in tempestiva dei pagani e dei suoi che sopraarriva cedean cacciati dallo suol cristiano i palestini, ossia temenza o d'arte, ed un dei persecutori, uomo inumano, vide le sventolar le chiome al vento sparte, e da tergo in passando alzò la mano per ferir lei nella sua ignuda parte, ma Tancredi gridò che se n'accorse, con la spada quel gran colpo occorse. Pur non gì tutto in vano, e nei confini del bianco collo il bel capo ferirle. e i biondi crini rosseggiaron così d'alquante stille, come rosseggia l'or che di rubini per man d'illustre artefici sfaville. Ma il prence infuriato allor si strinse addosso a quel villano, il ferro spinse. Quei si dilegue, questi acceso d'ira il segue, van come per l'aria astrale. Ella, Clorinda, rimane sospesa ed ambo mira lontani molto, né seguir le cale, ma co suoi fuggitivi si ritira. Talor alza la fronte, i franchi assale, or si volge, or rivolge, or fugge, or fuga, né si può dir la sua caccia né fuga. Questo Tancredi che fa la sua dichiarazione d'amore in mezzo al rovinio della battaglia rischia un po' di uscire dalla Gerusalemme, di finire in un altro poema assai più libero e spensierato, ma come in quei sogni dove accadono molte cose buffe ma non si ride mai, così qui ogni piccolo impedimento, ogni contrattempo, anche un po' strano, corrisponde in realtà ad una specifica e precisa opposizione del destino. Bene, delle molte gagliarde vite che perdettero la vita e le cui anime risalirono ai rispettivi cieli in questa prima occasione di battaglia, la più nobile e compianta fu senza dubbio quella di Dudone, principe di Consa, capitano dei Cavalieri di Ventura. A Dudon, Dodorifero Cipresso, composto hanno un sepolcro a piè d'un colle. Salvano. Quindi Goffredo invia tutti i fabbri dell'esercito crociato al bosco lontano poche miglia da Gerusalemme per troncare e raccogliere il legname necessario alla costruzione delle macchine d'assedio. A questo punto però il diavolo ci mette la coda. Eh sì, se Dio sostiene i cristiani è facile capire per chi parteggia il diavolo. D'altronde la lotta è dura e cruenta, ma a dire la verità, un po' impari. E come farà Satana, alla fine delle fini, a trionfare sulla volontà divina? D'altronde, l'esercito musulmano, che pure conta tra le sue fila molti gagliardi e generosissimi guerrieri, non ha un capo di tempra sopraffina come Goffredo di Buglione. La loro manifesta inferiorità si spiega con il fatto che nel poema abbiamo a che fare con realtà simboliche. Come Gerusalemme, con il suo santo sepolcro, è l'assolutezza spirituale, la luce di verità che bisogna sforzarsi di conquistare, così i musulmani rappresentano gli impedimenti oscuri dell'anima, le presenze negative, le resistenze che con vari mezzi vietano a ciascuno di noi di raggiungere la pace e l'integrità della coscienza. Insomma, i musulmani hanno la loro brava funzione di antagonisti, di disgregatori e di allucinatori, e non si può dunque far loro torto di servirsi delle frodi di Satana, anche detto Lucifero, ovvero sia Plutone, Tartareo, cioè infernale re degli abissi. Più che mai indiavolato, è il caso di dirlo, per la piega favorevole ai crociati presa dagli eventi, Plutone, nell'antro marino dove è relegato dopo la famosa rivolta degli angeli che si è conchiusa, come sappiamo, convoca la donata dei mostri. Chiama gli abitatori dell'ombre eterne il rauco suon della Tartarea tromba. Treman le spaziose atre caverne, l'aer cieco a quel rumor rimbomba. Ne si stridendo mai dalle superne regioni del cielo il folgor piomba. Ne si scossa giamai trema la terra quando i vapori in sé ingravida serra. Allor gli dei d'abisso in varie torme concorron d'ogni intorno all'alte porte. Oh, come strane, oh come orribil forme, quant'è negli occhi lor terrore e morte. Stampano alcuni il suolo di ferine orme in fronte umana anchiome d'angui, cioè di serpenti a torte, e l'orsa gira dietro immensa coda che quasi sversa, si ripiega e snoda. Qui mille immonde arpie vedresti, e mille centauri e sfingi e pallide gorgoni, molte molte latrar voraci scille e polifemi orrendi e gerioni e vomitar chimere e atre faville e fischiaridre e sibilar pitoni e innovi mostri e mai più intesi ho visti diversi aspetti in un confusi e misti d'essi parte a sinistra e parte a destra seder vanno al crudo re davante siede Plutone nel mezzo e con la destra sostien lo scettro ruvido e pesante né tanto scoglio in mar né rupe alpestra né pur calpe sarebbe la rupe di Civilterra o il magno Atlante si innalza, canzi lui non paresse un picciol colle, sì la gran fronte e le gran corna e stolle, orrida maestà nel fero aspetto terrore accresce e più superbo il rende, rosseggian gli occhi e di veneno infetto come in fausta cometa il guardo splende. Involve il mento e sull'irsuto petto ispira e folta la gran barba scende e in guisa di voragine profonda s'apre la bocca d'atro sangue immonda. Tartare i nomi, cioè divinità infernali, che meco già dai più felici regni spinse il gran caso in questa orribil chiostra e gli antichi altrui sospetti per isdegni noti son troppo l'alta impresa nostra or colui regge a suo voler le stelle e noi siamo giudicate alme rubelle ed invece del dì sereno e puro dell'aureo sol degli stellati giri là qui rinchiusi in questo abisso scuro e ne vuole che per noi al primo onor s'aspiri e poscia oh quanto a ricordarlo è duro, questo è ciò che più inaspra i miei pensieri. Nei bei celesti seggi, all'uom chiamato, l'uom vil e di vil fango in terra nato. Anni ciò gli parve assai, ma in preda a morte, sol per farne più danno, il figlio diede e gli venne e ruppe le tartare porte. E porre osò nei regni nostri il piede, e riportarli in ciel si ricche prede, vincitor trionfando, e il nostro scherno ivi spiegar le insegne del vinto inferno, ma che rinnovo i miei dolor parlando chi non ha già le nostre ingiurie intese, ed in qua parte si trovò né quando che gli cessasse le usate imprese non più desse all'antiche andar pensando pensar dobbiamo alle presenti offese te. E non vedete mai come gli tenti tutto al suo culto di richiamare le genti? A noi tra renneghitosi giorni e l'ore, ne degna cura fia che il corno accenda e soffriremo che forza ogni or maggiore il suo popolo fedele in Asia prenda e che Giudea soggioghi e che il suo onore il nome suo più si dilati e stenda e risuoni in nuove lingue e in altri carmi si scriva, incida in nuovi bronzi e marmi, che siano gli idoli nostri a lui conversi, che sia che i nostri altari il mondo a lui converta, che a lui sospesi, a lui solarsi siano gli incensi ed auro e mirra sparsi, come a noi tempio non solea serrarsi or via non resti all'arti nostre aperta, che di tant'alme il solito tributo ne manchi, e in voto regno, alberghi, Pluto, oh, non fia mai, e su che non sono anco estinti gli spiriti in voi di quel valor primero, quando di ferro ed alte fiamme cinti e pugnammo già contro il celeste impero, e fummo, io non nego, in quel conflitto vinci, pur non manco virtute, al gran pensiero, e diede che si fosse a lui vittoria, restò a noi d'invitto ardir la gloria. Ma perché più v'indugio? Itene, o miei fidi consorti, o mia potenza, o forze, ite veloci, ed opprimeterei pria che loro potere spissi da forze, pria che tutt'arda il regno degli ebrei. Questa fiamma crescente ormai s'ammorce fra loro entrate, e in ultimo lor danno, or la forza s'adopri, lor l'inganno. I demoni, prima ancora che il loro capo, invero piuttosto logorroico, abbia finito di parlare, annoiati e impazienti di rimettersi al lavoro, sgattaiolano fuori dall'antro. I demoni però sono una razza piuttosto codardella e non si presentano di persona, anche perché potrebbero rimetterci le corna se gli capita di incontrare un guerriero senza paura. E si servono invece delle anime a loro devote, e fra queste si insinuano e di lì muovono per suscitare una catena di effetti maligni. Idroate, signore di Damasco, è un modesto fattucchiere con scarsissime qualità di indovino, ma un'allieva straordinaria. La nipote Armida, donna dal fascino rapinoso. Yes, for a baby, la batisa, la yateba da, wala hiza da, ana la habibi, wa habibi. Mentre Idroate è intento ad escogitare qualche incantesimo contro i cristiani che assediano Gerusalemme, un demone entra nei suoi vuotissimi pensieri e gli suggerisce di mandare Armida al campo crociato. Sì, in veste di seduttrice. Oh, dice Idroate ad Armida, oh, diletta mia, che sotto biondi capelli e frasi tenere, sembianze canuto senno e cor virile ascondi, tessi la tela ch'io ti mostro ardita, di cauto vecchio esecutrice ardita, vanne al campo nemico, ivi si impieghi ogni arte femminile ch'amore alletti, bagna di pianto e famelati preghi, e tronca e confondi coi sospiri detti, e beltà dolente e miserabile pieghi al suo volere i più ostinati petti, e vela il suo verchio ardir con la vergogna, e fa manto del vero alla menzogna, e prendi se il serpotrago freddo all'esca, e se ce non puoi gli altri e più grandi ad esca. Mm. La bella Armida, di sua forma altera, cioè superba della sua bellezza e dei doni del sesso e dell'etate. L'impresa prende e in sulla prima sera tiene solo vie chiuse e celate, e in treccia e in gonna femminile spera vincer popoli invitti e schiere armate. Dopo non molti dì viene la donzella dove spiegate i franchi avevano le tende. All'apparir della beltà novella nasce un bisbiglio e il guardo ognun v'intende. Siccome là dove cometa o stella non più vista di giorno in ciel risplende, e traggon tutti per veder chi sia, sì bella peregrina, oh, e chi l'invia? D'auro alla chioma ed or dal bianco volto tra luce involta or di scoperta appare. Così, qualora si rasserena il giorno, talor da candida nube il sol traspare, or da la nube intorno i raggi uscendo più chiari spiega e ne raddoppia il giorno. Crespe l'aura al crin disciolto che natura per sé rincrespa in onde, stassi l'avaro sguardo in sé raccolto che i tesori d'amore e i suoi nasconde, dolce color di rose in quel bel volto fra l'avorio si sparge e si nasconde, ma nella bocca onde esce l'aura amorosa. Sola rosseggia e semplice. Habibili. La rosa mostra il bel petto, le sue nevi ignude. Parte a par delle mamme acerbe e crude, parte altrui, cioè agli altri, ne ricopre invida, invidiosa vesta. Invida, ma sa gli occhi, il guardo chiude, l'amoroso pensier già non arresta, che non pago di bellezze esterne negli occulti segreti anco s'interna. Come per acqua o per cristallo intero trapassa il raggio e non divide o parte, per entro il chiuso manto osa il pensiero si penetrar nella vietata parte, ivi si spazia, ivi contempla il vero di tante meraviglie a parte e poscia al desio le narra e le descrive e ne fa le sue fiamme in lui più vive. Che io posso ser dannato se no ti amo, e se così non fosse non capirei. Soffia il cielo, lo soffia il cielo. Così degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno teatro, opre sarians memorande, notte che nel profondo oscuro seno chiudesti, piacciati ch'io nel tragga, e in bel sereno, alle future età lo spieghi e mande. Viva la fama loro e tra lor gloria, splenda del fosco tuo, l'alta memoria. Il duello è lunghissimo, straziante, dura tutta la notte, e quando nel cielo dell'ultima stella ad oriente il raggio langue, è Venere, questa stella che langue, ma ecco mai l'ora fatale giunta, che il viver di Clorinda al suo fin deve, spinge egli il ferro nel bel sen di punta che vi si immerge, e il sangue avido beve, e la veste che d'or vago trapunta le mammelle stringea tenera e lieve, l'empie d'un caldo fiume. Ella già sente morirsi, e il piele manca, egro e languente. Segue egli la vittoria, e la trafitta vergine minacciando incalza e preme. Ella, mentre cadea, la voce afflitta muovendo, disse le parole estreme. Parole che a lei novo uno spirito ditta, spirito di fe, di carità, di speme. Virtù, cor Dio le infonde, e se rubella, cioè ribelle, in vita fu, la vuole in morte, ancella. Mi mancasti mai, o chiara stella, che fosti tu per me lo primo amore. Amico, hai vinto. E chiedi giarretta. Io ti perdono, perdona. Ma per te sempre batte il mio cuore. Tu al corpo no, che nulla pave, all'alma sì, deh, per lei prega e dona. Montanella di San battesimo a me, con ogni mia colpa lave. Sole. In queste voci languide risuona un non so che di flebile e soave, ch'al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, e gli occhi a lagrimargli invoglia e sforza. E poco quindi lontano nel sen del monte scaturia mormorando un piccior rio, egli v'accorse e l'elmo empie nel fonte, e mesto tornò al grande ufficio e pio. Tremar sentì la mano quando la fronte, non conosciuta ancora, sciolse e scoprì, o la vide, la conobbe, restò senza e moto e voce. Hai vista, hai conoscenza. Non morì già, che sue virtute accolse tutto in un punto e, premendo il suo affanno, a darsi mise vita con l'acqua a chi col ferro uccise, mentre egli il suo onde sacri detti sciolse, ella di gioia trasmutossi e rise, e in atto di morir lieto e vivace parea dir: s'apre il cielo, i vado in pace. Pezzosi augelli in fra le fronde temprano a prova la civette note, mormora l'aura e fa le foglie e l'onde garrir, che variamente la percote quando taccion gli augelli, alto risponde quando cantan gli augei, più lieve scote, sia caso d'arte ora accompagna ed ora alterna i versi lor la musica aura. Vola fra gli altri un che le piume a sparte di color varie, da purpureo il rostro e lingua snoda in guisa larga, e parte la voce sì che sembra il sermon nostro. E quest'ivi allor continuò con arte tanta il parlar, che fu mirabil mostro, e tacquero gli altri ad ascoltarlo intenti, e fermaro i sussurri in aria i venti. De mira, egli cantò, spuntar la rosa del verde suo, modesta e verginella, che mezza aperta ancora e mezza scosa, quanto si mostra men, tanto è più bella. Ecco poi nuda al sen già baldanzosa, dispiega, ecco. Poi langue, e non par quella, quella non par che desiata innanti fu da mille donzelle e mille amanti, così trapassa, al trapassar d'un giorno della vita mortale, e il fiore e il verde, né perché faccia indietro april ritorno si rinfiora ella mai, né si rinverde. Coglian la rosa in sul mattino adorno di questo dì, che tosto il seren perde, coglian d'amor la rosa, amiamo or, quando esser si puote riamato, amando. E con corde degli augelli il coro quasi approvando il canto indi ripiglia, raddoppian le colombe i baci loro, ogni animal d'amar si riconsiglia, perché la dura quercia e il casto all'oro e tutta la frondosa ampia famiglia, perché la terra e l'acqua e formi e spiri dolcissimi d'amor sensi e sospiri. E fra melodia si tenera, fra tante vaghezze allettatrici e lusinghiere, va quella coppia, cioè Carlo e Ubaldo, e rigida e costante se stessa indura i vezzi del piacere, quando ecco fra fronde e fronde il guardo in ante penetra e vede, o pagli di vedere, vede pur certo il vago e la diletta, quegli è in grembo all'amante, essa all'erbetta. Dinanzi al petto al vel diviso e il crin sparge incomposto al vento estivo, langue per vezzo e il suo infiammato viso fan biancheggiando i bei sudor più vivo, qual raggio in onda le scintilla un riso negli umidi occhi tremulo e lascivo, sovra lui pende ed è nel grembo molle le posa il capo e il volto al volto attol. Baby, Nandahani, Dallas City. e i famelici sguardi in lei pascendo si consuma e strugge, si inchina ella sovente, i dolci baci liba or dagli occhi e dalle labbra or sugge, ed in quel punto ei sospirar si sente profondo, sì che pense: or l'alma fugge e in lei trapassa peregrina. Ascosi mirano i due guerrier gli atti amorosi. Il 15 luglio 1099, verso mezzogiorno, Goffredo di Buglione piantò il grande vessillo crociato sugli spalti delle mura ormai espugnate di Gerusalemme. Il poema si chiude in una malinconia sospesa. D'altronde al poeta piacciono le malinconie risolte, piace che gli amori siano impossibili e che la pace sia improbabile, ma la pace alla fine deve venire. Bahuata Adonai, Bahu Abba Yerushalayim, Bahu Bahuata Adonai, Bahu Abba Yerushalayim. Alla fine di quel giorno terribile, Goffredo riunì i cavalieri crociati e li condusse in silenzio alla chiesa del Santo Sepolcro. Gerusalemme era insanguinata, non ci fu nessun gesto di trionfo. Giunto al tempio, Goffredo depose le armi, entrò per primo, si inginocchiò e pregò perché tutte le anime morte in guerra rinascessero. Love.